cioè c'è una mentalità religiosa fortemente radicata, la maggior parte della popolazione è cattolica, ma c'è un 20% di cristiani protestanti in Venezuela. Quindi diciamo è fortemente radicata. Però qual è la questione? Abbiamo visto come il governo venezuelano abbia negli anni creato una diversa mentalità per tante questioni, per esempio sull'autogestione delle fabbriche da parte dei lavoratori. Abbiamo visto come ha cercato di alimentare la partecipazione alla vita politica dei venezuelani, mentre su questo evidentemente non ha fatto altrettanto, non c'è stato questo tentativo di cambiare la mentalità, anche a partire da una legge che potrebbe essere anche impopolare come quello dell'aborto. Ma non pensiamo che a Cuba, quando è stato legalizzato l'aborto, esso fosse popolare. È stata una scelta giusta di un governo, magari fatta contro l'opinione pubblica, ma che poi va sostenuta, va spiegata, va alimentata una nuova cultura, e può essere che anche le persone cambiano mentalità. Anche perché se poi vediamo che la metà delle venezuelane sono costrette a abortire clandestinamente, quindi la questione è di mentalità, non è di necessità sociale. E per i prossimi 6 anni di governo, infatti, Chavez resterà in carica fino al 2019. Il governo chavista ha già scritto un piano che sta venendo esaminato dagli organi locali del Partito Socialista Unito del Venezuela e dalle altre forme di organizzazione popolare che sono stati promossi in questi anni, come i consigli comunali, che ricordo non sono il corrispondente dei nostri municipi, ma sono dei consigli comunitari, delle assemblee attraverso le quali le comunità di quartiere, i paesi si organizzano e gestiscono orizzontalmente alcune questioni. Questo piano verrà poi approvato in gennaio dal Parlamento venezuelano e sarà poi l'architettura attorno alla quale si articolerà il governo di Chavez per i prossimi 6 anni. Sì, sostanzialmente il piano presenta le linee guida sulle quali si muoverà il governo di Chavez. E il piano si divide in 5 sezioni, diciamo che adesso spiegheremo abbastanza brevemente, visto che è piuttosto lungo. In totale sarebbero 40 pagine. Dunque, la prima sezione trattasi di consolidare l'indipendenza nazionale. Quindi cosa vuol dire consolidare l'indipendenza nazionale, che è un punto sul quale si tornerà spesso nel resto del piano. Innanzitutto, il punto chiave, primo presentato, è il mantenimento del controllo statale del settore petrolifero e quindi il consolidamento delle compagnie statali che si occupano di sfruttamento delle risorse minerarie del territorio venezuelano, che ricordiamo costituisce la maggior ricchezza del Venezuela sostanzialmente. A proposito di questo, si parla di gestione nazionale e popolare della politica petrolifera. Che cosa vuol dire gestione nazionale e popolare? È anzi definita rivoluzionaria. Tutto a posto? E sostanzialmente quello che viene detto è che si cercherà di fare in modo che il popolo stesso, le stesse persone venezuelane, possano controllare quali siano gli investimenti da fare con il ricavato dell'industria petrolifera, e questo dovrà avvenire tramite i consigli comunali, che abbiamo appena detto cosa sono, e altre organizzazioni di base. Poi si pone l'attenzione sulla fortificazione dei rapporti tra Cina e Venezuela, rapporti che sono sostanzialmente a matrice economica, e si costituiscono di scambio, diciamo, tra petrolio e servizi finanziari da parte della Cina invece, e anche questo è un punto su cui si tornerà più avanti. E l'altro punto su cui si parla è sostanzialmente di garantire una reale indipendenza sul piano agricolo ed alimentare. Questo è effettivamente un punto molto importante, in quanto costituisce, diciamo, l'alternativa più consistente ad un'economia che è per il momento basata fondamentalmente sull'estrazione petrolifera. E il punto chiave di questa parte è l'eliminazione definitiva del latifondo, che ricordiamo purtroppo il latifondo costituisce ancora un modello di possedimento terriero abbastanza consistente in tutta l'America Latina. E il piano con il quale vogliono essere gestite queste terre adesso è così costituito, lo diciamo brevemente: un 2% delle terre devono essere devolute all'agricoltura in generale, senza alcun tipo di limite sul tipo di agricoltura che viene fatta, un 4% altri tipi di agricoltura, un 14% altri ancora. Perché specifica vari tipi di agricoltura? Perché diverse coltivazioni e diversi modi di coltivazione influiscono diversamente sul territorio, quindi non si può mettere tutto a coltivazione intensiva, evidentemente. Un 30% viene lasciato ad altre cose, e in sostanza il 50% del territorio, secondo questo piano, deve essere lasciato alle risorse naturali, quindi sostanzialmente lasciato intatto così com'è, foreste e favoreggiamento dello sviluppo della biodiversità. E infine, sempre sul piano dello sviluppo dell'agricoltura, c'è un progetto di, diciamo, di comprare sempre all'interno di questo scambio con la Cina 110.000 nuovi trattori a proprietà collettiva. E un altro progetto che forse è ancora più interessante è, diciamo, l'obiettivo di riuscire a rendere il 50% della produzione agricola basata su metodi alternativi, vale a dire modelli ad agricoltura familiare, modelli ad agricoltura all'interno delle città o quasi all'interno delle città, modelli di sviluppo della tradizione indigena nell'agricoltura e in generale modelli agricoli sostenibili. Ed infine l'ultimo punto sulla consolidazione dell'indipendenza nazionale è quello dello sviluppo della difesa e quindi dell'aumento dell'attività militare e della partecipazione popolare nella difesa nazionale. Cosa vorrà dire partecipazione popolare nella difesa nazionale? Beh, perché in Venezuela ci sono delle milizie che non fanno parte dell'esercito venezuelano, della forza pubblica, insomma della polizia, ma hanno, diciamo, una base sociale all'interno delle strutture di autogoverno chaviste, nei quartieri, nelle organizzazioni che portano il loro consenso a Chavez. Dopo il fallito colpo di Stato del 2002 si sono fortificate queste strutture per, diciamo, creare delle forme di potere militare alternative a quelle dell'esercito, visto la sempre possibile ritorno di una strategia di golpista all'interno del panorama venezuelano. Va benissimo. Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye, Héctor. Adesso trattiamo il secondo punto di questo piano di linee guida. Il secondo punto è intitolato Costruzione del XXI secolo di socialismo bolivariano. Sostanzialmente il punto si occupa di educazione, sistema giuridico e in particolare di riforme sul lavoro. Molto brevemente, per quanto riguarda il tema dell'educazione, è prevista la costruzione di nuove scuole. Ora va ricordato che effettivamente l'aumento delle scuole e dell'alfabetizzazione in generale è qualcosa di positivo che possiamo attribuire al governo di Chavez. In ogni caso, in questo piano di sviluppo dell'educazione, una critica che viene affrontata dall'autrice di questo articolo è che non prevede un cambiamento strutturale e metodologico nella fase di insegnamento, vale a dire che il modello di insegnamento che viene seguito è ancora un modello piuttosto autoritario e che incentiva e favorisce la competizione e, come dice l'autrice dell'articolo, ancora tutto sommato continua a produrre lavoratori obbedienti e molto poco altro. Obbedienti bene al sistema, però insomma va ricordato, va riconosciuto che il Venezuela di Chavez dagli inizi del 99, insomma lo riconosce l'UNESCO, non lo sto qui a dire io, che ha quasi praticamente combattuto l'analfabetismo, che era una piaga alta nel paese. Diciamo che ora un'istruzione primaria è data anche a tutti gli strati più bassi della popolazione, che prima erano molto distanti. Ovviamente poi sul modello educativo ci sarebbe proprio da pensare qua da noi e anche in varie eccellenze, come si suonano chiamare. Sì, diciamo che il modello educativo venezuelano in questi anni non è cambiato per niente rispetto a quello precedente, ancora modello educativo autoritario basato sulla competizione, sul premio a chi emerge, ma naturalmente sul piano dell'estensione del diritto allo studio, su quello sono stati fatti notevoli progressi con molte missioni che hanno esteso sia l'accesso all'istruzione primaria sia anche quello all'istruzione secondaria e all'università. Anzi, vabbè, questo effettivamente gli va riconosciuto, visto che accanto in Colombia sul piano dell'educazione le cose vanno in tutt'altra direzione. Conosciamo situazioni in cui quest'anno anche l'educazione primaria è saltata. Comunque, continuando sul piano giuridico, invece si parla semplicemente di promozione, di costruzione di infrastrutture a carattere giuridico, vale a dire costruzione di nuovi tribunali, costruzione di corti. E rispetto a questo, sempre la critica che viene mossa dall'autrice di questo articolo è che tutto sommato anche questo non rappresenta una vera riforma strutturale, nel senso che il sistema giudiziario continua a essere inefficiente, corrotto e sostanzialmente antipur, contro i poveri. E dice fondamentalmente che la costruzione di nuove infrastrutture non garantirà che la corruzione dilagante in questo sistema, nonché l'ingiustizia intrinseca, possano essere abbattute. Ed infine, su questo punto possiamo dire quello che riguarda le relazioni di lavoro, e questo forse è un punto abbastanza importante, nel senso che si punta da un piano sul piano culturale ad aumentare del 200% la produzione di libri e riviste di vario genere. Si punta ad aumentare le infrastrutture culturali, vale a dire reading room, stanze di lettura, biblioteche. Qui dice addirittura costruirne 336 nuove, di incentivare e favorire la formazione di comunità culturali e di organizzazioni culturali e soprattutto, un punto che secondo me è molto importante, garantire sicurezza sociale ai cosiddetti lavoratori della cultura, quali artisti, musicisti, scrittori e vari ed eventuali che generalmente non vivono, non navigano in buone acque. E infine, accanto a ciò anche l'aumentare le strutture, no scusa se ti ho interrotto, per le popolazioni indigene, accelerare lo spazio di autonomia e indipendenza. Non ti volevo bloccare, continua, scusa, volevo solo aggiungere questo. No, sì, perché rispetto a questo viene anche sottolineato, diciamo, il punto dell'aumento della sicurezza sul lavoro e la garanzia di migliori condizioni di lavoro. E rispetto a questo ricordiamo che proprio a maggio di quest'anno è stata approvata la nuova legge organica del lavoro, che forse c'è già stata detta lunedì scorso, ma ricordiamo, prevede la riduzione della settimana lavorativa, l'estensione del congedo di maternità, il diritto di assenza dal lavoro per malattia dei figli e l'eliminazione di appalti, subappalti di subappalti, che conosciamo bene qua in Italia, ha creato situazioni pessime. Ne abbiamo un esempio qua dietro in Sapienza e forse questo è un punto molto importante. Ed sì, infine costruzione di case popolari, anche queste ne devono essere costruite 3 milioni, ne sono già state costruite 200.000 e ci sembra anche questo un punto molto positivo. Sì, diciamo, finora abbiamo visto in questo piano c'è soprattutto delle politiche in continuità con quanto è stato fatto negli anni precedenti. Si tratta di molte cose positive, ma vediamo che e soprattutto lo vediamo nel prossimo punto che andiamo ad affrontare, quello dello sviluppo industriale. Si resta ancora in un quadro di sviluppo delle industrie per certo sostituire le importazioni che rimangono per il Venezuela la prima fonte dei prodotti alimentari, dei prodotti tessili e di ogni genere di consumo. Ricordiamo che il Venezuela si regge sull'esportazione di petrolio, di cui è uno dei più grandi paesi esportatori del mondo, la quinta riserva petrolifera del mondo, il primo esportatore in America Latina, il primo esportatore verso gli Stati Uniti, e qui ovviamente c'è una contraddizione del Venezuela, visto che il suo acerrimo nemico nella politica internazionale è anche il mercato su cui si regge la sua economia. Andiamo quindi a vedere qual è il programma dello sviluppo industriale del governo di Chavez per i prossimi 6 anni. Sì, sostanzialmente in questo punto si pone molto luce sullo sviluppo industriale che sarà grandioso, perché lo scopo è quello di riuscire ad ottenere un'indipendenza sul piano industriale e tecnologico, in generale sul piano della produzione di manifattura, perché appunto generalmente, come molti paesi del Latino America, importano manifattura ed esportano materie prime con non indipendenza. Su questo piano, sostanzialmente, quali sono i punti principali? Costruzione di infrastrutture utili all'industria del petrolio, quali le raffinerie, perché il petrolio viene esportato così com'è e non raffinato, per l'appunto. Dopodiché sviluppo delle riserve di gas e del potenziale di riserve di gas che possiede il Venezuela, quindi cercare per nuove riserve di gas, aumentare e migliorare la rete di distribuzione e trasporto di gas e petrolio, fortificare ed espandere l'industria petrolchimica, fortificare ed espandere l'industria di produzione dei fertilizzanti. Questa in particolare, si vuole aumentare del 43% la produzione dei fertilizzanti, di modo da fare del Venezuela un esportatore di fertilizzanti. Sì, non aumentare... solo esportatore, probabilmente anche utilizzatore, quindi diciamo questo punto anche utilizzatore, è un po' in contraddizione con quanto affermato invece in precedenza nello stesso programma di governo su un tipo di agricoltura che invece abbia un rapporto diverso con l'ambiente. E qui c'è un po', forse vengono al pettine le contraddizioni di questo processo venezuelano, che nonostante attivi importanti progetti alternativi a questo modello economico, poi invece quando si tratta di andare a produrre, di andare a collocarsi all'interno di questo sistema economico, non differisce da altri paesi dell'America Latina e del mondo. Un altro esempio lampante, se posso aggiungermi, in questo piano, in questa sezione, che afferma anche di voler aumentare la produzione nazionale di automobili, e poche righe dopo sostiene che comunque di voler diminuire la dipendenza dall'automobile e i consumi individuali che portano un'economia di devastamento ambientale e favorire i trasporti collettivi. Quindi sì, insomma, ci sono anche contraddizioni lampanti solo fra poche righe nello stesso piano presentato da Hugo Chavez. Sì, in realtà poi le contraddizioni si fanno ancora più evidenti nell'ultimo punto, in cui tutte le produzioni che qua si dice di incentivare verranno poi contraddette da una politica che vorrebbe invece disincentivarle. Per esempio qua si parla di aumentare la produzione delle resine plastiche, nell'ultimo capitolo si parlerà di riduzione del consumo della plastica e di esempi del genere, o raddoppiare la produzione e l'estrazione del petrolio, nonché la produzione di macchine normali, appunto, come abbiamo detto, aumentare il trasporto pubblico, disincentivare l'utilizzo della benzina e della macchina, aumentare lo sfruttamento delle risorse minerarie, che al contempo uno dei processi estrattivi minerari sono tra le industrie più inquinanti che uno possa conoscere, e se da un lato si parla di economia sostenibile, dall'altro si parla di aumento dello sfruttamento minerario. D'altro canto, su questo però dobbiamo anche aggiungere che si dice anche di sviluppare la tecnologia relativa al settore minero, e in maniera da diminuire l'impatto ambientale che hanno i residui della lavorazione dei minerali. Un esempio più classico rispetto a questo è il mercurio, che viene utilizzato abbondantemente nella lavorazione dell'oro, sia da piccoli estrattori, piccoli minatori, che da grandi minatori, e viene riversato senza alcun tipo di controllo né null'altro nei fiumi, direttamente così come si trova. E infine, sempre in contraddizione con la volontà di sviluppare un'economia sostenibile, abbiamo lo sviluppo dell'industria forestale, vale a dire lo aumento dello sfruttamento delle risorse naturali di legno, vale a dire abbattimento delle foreste, e anche questo punto ci torna un po' critico. E poi ultimo, per non elencare tutte le industrie che vogliono essere incentivate, chiaramente si parla di incentivare proprio le industrie che al momento quasi non esistono: cellulari, macchine, vestiti, scarpe, igiene personale addirittura è citato. Ed infine parliamo di sviluppo del settore turistico, e qui chiudiamo il punto. Soy la voz del sentimiento, por eso rompo toda barrera. Soy la voz que dieron por muerta. Y la dieron por muerta. ¿Cómo? Y eso a mí me rompe el coco. Soy la voz que dieron por muerta. Sigan durmiendo de este lado, que en el caballo sigo trepado como un loco. Y quien lo niega. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente. Sì, concludiamo sostanzialmente, non abbiamo tempo per finire puntualmente di descrivere quali sono le linee guida di Chavez, però brevemente le ultime parti mettono in luce le contraddizioni che abbiamo elencato prima, per cui se da un lato si parla di sviluppo industriale, dall'altro si parla di sviluppo sostenibile, e su certi punti di vista è un po' difficile pensare alla coesistenza di queste due cose. Sì, da una parte si parla di combattere il consumismo e la dipendenza dal petrolio, dall'altro di aumentare l'industria petrolifera. Comunque, insomma, io ricorderei solo questo articolo, è disponibile, di Tamara Pearson, Planning the Next Six Years of Venezuela's Bolivarian Revolution, che si può trovare su un sito che è molto, contiene numerose analisi sulla situazione venezuelana, che è Venezuela Analysis, e questo io direi che può, questo è voluto un buon contributo per problematizzare un po' la situazione, la rielezione di Hugo Chavez, che cosa è il, cosa significa la rivoluzione bolivariana, qual è l'effettivo potere in Venezuela senza ridursi a degli slogan, a delle facili esemplificazioni, a tifoserie o alla critica del grande dittatore, come la gran parte dei nostri giornali e media mainstream fanno. Bene, noi abbiamo ormai concluso il tempo a noi assegnato, salutiamo tutti e tutte quelle che ci hanno seguito finora, lasciamo i microfoni di Radio Onda Rossa a Impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività. Noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 16:30 su Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti e tutte quelle che ci hanno seguito finora, in particolare a chi lo ha fatto privato della propria libertà personale.